That you always says you're listening to Fabio B and Johnny and Move Fire every time, okay? Yeah. Big up. Code name Move Fire on the run. Code name Babylon Action. Code name Move Fire on the run. Radio Babylon Action. Well, we have the lyrics weapon. They brandish when the dance get ram. We start fling down the Roseman pattern. Full of knowledge and enough wisdom. Some of them are come with them imitation. Born on the same day but a different pattern. But when you see the more fire show up on the run, you know say this your one when I ramp with the plan. Hey yo, tune in to the More Fire Show. This is Brother Culture. Big up the Under Rasta, massive every time. Right. A team call a 1-2. Ain't no skipping boogaloo. Nancy off them on the queue. Steady, just cool it on. Tommy say 1, Tom and Nancy make a little plan. And me say 2, I tell nobody kick off your show. And me say 3, I tell you Nancy have a baby. And me say 4, me let nobody kick off my door. And me say 5, I tell you if you slip you will slide. And me say 6, I mean I'm sister Nancy. And me say 7, but every man won't go ahead. Me say 8, but I tell you Nancy lay a damn straight. Tell me say 9, don't wanna this your lyrics, you are mine. Me say 10, go tell your little friend, say sister Nancy come again. Me do not to borrow and me do not to lend. Cause anything me borrow, me I get it back tomorrow. And anything me lend, me I forget it back again. Slang, slang, slang, dang, dilly. Me say me walking down the street to man. Buonasera e benvenuti a tutte e a tutti a questa nuova puntata di More Fire Reggae Radio Show, programma del martedì di Radio Onda Rossa dedicato alla musica reggae. Iniziamo questa puntata con una pioniera del reggae, ovvero Sister Nancy, ancor più pioniera del DJ style, lo stile che si fa al microfono su un sound system, o almeno così nasce. Sound system intorno al quale lei orbitava era il Jalo Sound System insieme al fratello Brigadier Jerry. Il pezzo è dell'82, si chiama 1-2, dall'omonimo album, lo stesso album che contiene la epocale Bam Bam. More Fire! I tell you Nancy have a B.A.B. and me say 4. Don't come and only cough my door and me say 5. I tell you if you slip you will slide and me say 6. I mean he a woman Nancy and me say 7. But every man won't go whatever me say 8. Jam and Nancy lay a damn straight and me say 9. Me tell you this your lyrics you are mine and me say 10. Go and tell a little friend that sister Nancy come again. To Nancy come again. Me do not to borrow and me do not lend. Me do not to borrow and me do not lend. Me come again, hey ya. Me say go tell your little friend me come again. I tell you in a difference, tell me come again. But I tell you make you stop your running, well me come again. Slang, long, long, long, dilly, dilly. Go tell your friend, you know? We are the neighbor, stop to play. Rimaniamo sulla stessa strumentale, ovvero il Taxi Rhythm, ma facciamo un carpiato di una quarantina d'anni. Cool Up Record Mixtape Virtus Bring Joy. Me Kami mi kami no tire, mi aya. Turn up the amplifier. Me singing pon a rhythm, see the people require. The taste, the pepper, me lyrical fresher. Performing is a pleasure, so now put me under pressure. Me no local, reaching Steve focus. The mission of me life is 2010. My proposal, dancehall is so super. Musical chopper, one eye upon the past and the other to the future. See me, me, me, me, one ring joy. Give me a rhythm, put it on. And a two, and a three, and a four. See me, me, me, me, one ring joy. You want someone to totally not. Nothing was happening in a lot. See me, me, me, me, one ring joy. Give me a rhythm, put it on. And a two, and a three, and a four. See me, me, me, me, one ring joy. You want someone to totally not. Music me one. Time passes, I'm the same little guy. Cause music me need it. Without it, baby, and we die. Come in on tire, me aya. Turn up the amplifier. Me singing pon a rhythm, see the people require. The taste, the pepper, me lyrical fresher. Performing is a pleasure, so now put me under pressure. Me no local, registry focus. Cool Up Record direttamente dal mixtape Back to the Good Old Days. La Cool Up Record è un'etichetta indipendente dedicata alla creazione e alla promozione di musica reggae, formata da Frania Tiken, Mr. Joe Vaniglia aka Jay Smiley e Mario Garcia aka Tenor Mario. Continuiamo quindi l'ascolto con qualche traccia estratta dal mixtape come la prossima, dopodiché andremo ad ascoltare qualche uscita recente che trovate sul loro Bandcamp anche su formato vinilico. Lasciamo la parola quindi a Pupa Congo, la traccia si chiama Ink. Used to do it like a painting with natural lace to decorate your melanin. No matter which culture, all a kind of earnings. So listen, Papa Congo, me comfy chanting. If you want to get a tattoo, reset the writing. And if you don't like at all, respect a walking. Repeat the punchline and super pour the ink. Give me more ink. How many want from your skin? Stories, the stories from the life you can see. It's a world thing to know, the creativity. It has been useful for the people to go this story. To mark upon the skin and decorate your body. Welcome to the dance with tattoo friendly. Give me more ink. I want me one from your skin. To all a kind of melanin. My body, my. So when you leave the studio, heal it very well. Clean it up and wash it only with warm water. Natural soap, that's what's the matter. And don't forget the balmy, you don't want to fuck it up. Listen, Congo voices from the bottom More Ink, pezzo che evidentemente parla di tattoo. La goliardia è la stessa dei DJ giamaicani degli anni 80, così come lo stile, lui era Pupa Congo. Rimaniamo quindi nelle produzioni della Cool Up Record. Questo è il penultimo singolo uscito, ma estratto da un album del 2020. Lei è Aipo. La traccia sottolinea la necessità di smettere di taggare, più che altro di dare una categoria alle persone. Il tutto questo in a rubber dub style, con suoni che vanno dal digitale mischiati a quelli acustici. So, Morfire, Radio Onda Rossa, Aipo, Burn Your Tag. Aipo, What a Flow, Burn Your Tag on Cool Up Record. E sempre su Cool Up Record è uscito il prossimo pezzo in formato digitale e fisico, ovvero su vinile, e a breve anche come videoclip. Lo lasciamo presentare al cantante stesso, ovvero Virtus, con una biografia che è così lunga che vi consiglio di andarvela a cercare, comunque nella storia ormai del reggae italiano e non solo, da una ventina d'anni, produttore, musicista, cantante. Lo andiamo a sentire con il pezzo che ammicca alla Sound System Scene dei nostri giorni, e il pezzo si chiama Artical. Ciao a tutti, un saluto da Virtus, un saluto a tutti gli ascoltatori di More Fire. Questo è il mio nuovo singolo, si chiama Artical. Fra pochi giorni, il 13 marzo, uscirà anche il videoclip ed è prodotto da Cool Up Records. Vibes not one, so nothing now pop off. The bar E dopo Virtus abbiamo in qualche modo lasciato la Spagna per il Regno Unito e siamo andati a trovare il duo di producer Danny T and Tradesman di Lead, specializzati in dancehall e steppa, molto influenzati dagli anni 80, ma dal punto di vista proprio di dance, più che di dancehall, anche dagli anni 90, soprattutto per lo stile moderno e innovativo. Abbiamo appunto sentito Dance a One, cantata da Lutan Faya, e la prossima traccia invece che ascolteremo è un refix, ovvero un riadattamento di un pezzo di Just Scratchy, appunto degli anni 80, che mi sembra fosse uscito su Lancer Rhythm, che si chiama Walkin' Skunk. More Fire, Radio Onda Rossa. E Tradesman, Just Scratchy, Walkin' Skunk. Rimaniamo in ambito digitale, anche se ci spostiamo in Francia. La voce è quella di Nutea insieme a LMK e dalla Jamaica Pinchers, e queste combo incredibili e variopinte sono tipiche degli Irie Heights. La traccia da Licky Licky Rhythm si chiama Musical Murder. Pop pop pop. Rasta know we no peg, we no powder, but we again mash up the place, yeah. Them a charge with the musical murder. Gun salute, watch out for the lyrical gangster. Charge with the musical murder. Gun salute, watch out for the super song. Musical murder, musical murder. Oh, what a slaughter. Rasta know we no peg, we no powder. Sing a ling ling, I need you, boy. Kill a song guy anytime, anywhere. Make tune them a play, but we don't feel no fear. Make them know them a baby feel we. Long time we dead, we are the DJ daddy. Time a pass through, but we still ready. And y'all a still want wine up on we. And don't get vexed if your gal love me. She just a love big thing and it's so easy. Them a charge with the musical murder. Gun salute, watch out for the lyrical gangster. Charge with the musical murder. Gun salute, watch out for the super song killer. Musical murder. Oh, what a slaughter. Rasta no, we no pet, we no powder. Sing ding ding nani, yeah. Chi boy. My sound it a lily lick. Yes, it a lick selection. We a lily link. Yes, we a bling. Good vibes we a bringing in. Yes, we a bring. Son boy can test we can test we. Anywhere we play my son, that the number one. We a come for rock every man and every woman. Nobody can test, we are the champion. When you hear we on the mic, you know we are the red dawn. My son, it a lily link. Yes, it a lick selection. We a play lily link. Yes, we a fling. Good vibes we a bringing in. Yes, we a bring. Son boy can test we can test we. Them a charge with the musical murder. Gun salute, watch out for the lyrical gangster. Charge with the musical murder. Gun salute, watch out for the super song killer. Musical murder, musical murder. Oh, what a slaughter. Rasta no, we no pet, we no powder. Sing ling ling na ni chi boy. I kill, kill, kill, kill, kill, kill, we kill some boy. Kill, kill, kill, we string up on them song this way. Kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, we kill some boy. The champion come back up your drum and run wild. Get another place from some kill jump on in this. Tunes lay them to waste, real dubs up on them face. Got the champions on a place, sweet for the time, sing for the waist. So jump and get your race with the blade stuck in the face. Cause I kill, kill, kill, kill, kill, we kill some boy. Kill, kill, kill, from a reach them soul in this world. Kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, we kill some boy. The champion come back up your drum and run wild. Them a charge with the musical murder. Gun salute, watch out for the lyrical gangster. Charge with the musical murder. Gun salute, watch out for the super song musical murder. Musical murder. Oh, what a slaughter. Rasta no, we no pet, we no powder. Sing ding ding na ninja boy. Let them about it, we are the dancehall daddy. Let them about it, we are the dancehall daddy. No other song can taste way. No other song can hold way. We feeling like a movie star. They jump right soon and don't lose no word. Champion feeling like a movie, movie star. Kill jump on so easy, kill him like a movie star. Well, when June ranks come, you know I'm rough in that business. See, me no rap up. Team with the gun. We keep it in the- come fossimo saliti a bordo di una DeLorean, siamo tornati anche noi indietro nel tempo con questi refix di artisti iconici della dancehall anni 80. Questa era Juni Ranks con la traccia Entertainer, prima di lei abbiamo sentito Just Creechy e a seguire sentiremo Tell Me How di Super Don Dada Cat. Alle manopole di questi ultimi due remix sono gli spagnoli Rag Attack. E quindi Tell Me How, Supercut in a New Style and Fashion Remix Style. Now let's arrive and all in the scatter. Think about the stumbling platter. But some of them for your fixed it, special bush past, they could never enter. Go let me tell your master, God, the body father, God, I get it. Come follow me. When we say easy, Papa, rubber, them, I feel understand. And say this, I wanna know for Glow Clocks Clan. Jump on, and this, I wanna know for Panamanian. This, I wanna know for the Nati, them, we going as Zion. And Super Cat, and our style and fashion. We come to the place and take up the mic and session. Of it. When we say run, come tell me, oh, when we say run, come tell me, oh. Say run, come tell me, oh, when we say run, come tell me. Come tell me, oh, are they righteous leader? Come tell me, oh, are they righteous leader? For me say some a president, some of them a counselor. For some a manager and some a era leader. But me say blood it is a thing we thicker than water. Them boots me every day be in a hot water. Some a fire and machine gun and that a bush pastor. On the radio and the TV and daily cleaner. Some a cool like cucumber, some hot like pepper. Me say all over the world a beer shot a fire. So me can't put me trust in on a fast lead. And me say run, come tell me, run, come tell me, run, come tell me. Come follow me, run, come tell me, run, come tell me, run, come tell me, oh. Say run, come tell me, run, come tell me, run, come tell me, oh. Ah, oh, are they righteous leader? Come tell me, oh, are they righteous leader? Come as a God, I will me love, and me say, if me fall up on a boy, now go tighten up me neck and call up on me. Can't go, go pray to the guy Lucifer. It's a cat in the ear, I murder me charge for. Dash it, under me roots and under me culture. I'm up in a London, I'm numb up in a Canada. Me say, Christian, I'm a la clava and over. And then me, I'm go drop up down in America. For anyway, me go a murder me charge for. So no guy, no go to super cat and follow. The angel upon me with some eagle's feather. And the elephant trunk away me drink me water. But tell your master God that he my fame roller. Now run, come tell me, run, come tell me, run, come tell me. For me say run, come tell me, run, come tell me, run, come tell me, oh. Say run, come tell me, run, come tell me, run, come tell me, oh. Come tell me, oh, are they righteous leader? Come tell me, oh, are they righteous leader? For me say some a president and some a era leader. Prime Minister and some of them a counselor. For me say every day them boots me mean a hot water. And me name it does a ring up to the daily cleaner. But no guy no go to super cat and fella. For the angel of me with the eagle's feather. From the elephant chunk away me drink me water. Come listen me say get a bird and me char. Come follow me oh are they righteous leader. Come tell me oh are they righteous leader. Come tell me oh are they righteous leader. E questi era Supercut in una traccia dalle liriche conscious nelle quali si domanda come vadano veramente le cose e forse anche come dovrebbero andare. Ci accompagna nel giro di boa a un'altra serie di tracce un po' differenti. Kevin Dub and Dubbing Sun insieme a Lady Skye alla voce ci presentano questa traccia che si chiama Inspiration nello studio S1 Remix. La produzione è della Moonshine Recordings dalla Polonia. Thank you. nation. Tell the vampires they cannot beat me persuasion. Lady Sky Inspiration, sicuramente uno dei miei dischi preferiti tra gli ultimi comprati in questi mesi. E torniamo nuovamente in Francia, nello specifico a Rouen, dai Blackboard Jungle, per questa traccia che esce su un B-side dietro, ovvero a Echo Ranks, Chant Down the Wicked. Lei è Mo Calamity, la traccia si chiama Conquering Lion. We must be in one. cresciuta a Parigi ma nativa di Capoverde, Mo Calamity è attiva già dai primi anni del 2000 fino a quando con i Weezer nel 2007 esce con l'album Words of Light. Cantante militante ispirata al reggae africano e caraibico, non poteva che seguire questa strada. Si confronta bene anche al giorno d'oggi con le nuove produzioni stepper. E continuiamo appunto in a stepper style, tornando alla Cool Up Record, che è stata un po' la label, l'etichetta della nostra puntata, con due personaggi che hanno davvero una gran voce, ovvero Pio Soul Rebel, che sentiamo col pezzo Teachings, e Paulinho, che invece seguirà con la traccia My People Want to Move, che dedichiamo a qualsiasi tipo di migrante. Gunshots in the air. Questa traccia sostiene una raccolta fondi relativa alla strage di Cutro, per cui vi invito a seguire questa cosa sui canali, anche su YouTube stesso, mettendo Antonio Montano 26 febbraio 2023, e lì troverete tutti i link per la raccolta fondi e per questa campagna destinata alla rete 26 febbraio, un'organizzazione di coordinamento che riunisce diversi enti e associazioni impegnati nella tutela dei diritti umani e della dignità delle persone migranti. In particolare, il denaro raccolto servirà a dare sostegno economico e legale ai superstiti e alle famiglie delle vittime, e in più a sostenere le spese economiche per permettere il rimpatrio e una degna sepoltura delle vittime. Per cui Antonio Montano, 26 febbraio 2023, è la traccia che andiamo a sentire, e indirizzandovi appunto a questa raccolta fondi, per la quale potete anche andare sulla piattaforma GoFundMe, nel senso di fund, GoFundMe, e cercare strage di Steccato di Cutro, Verità e Giustizia, per poter così fare una donazione e partecipare anche voi alla causa. E prima di salutarvi e di lasciarvi alla traccia di Antonio Montano, vi ricordiamo di sostenere sempre Radio Onda Rossa visitando la pagina www.ondarossa.info e partecipando in ogni modo al suo sostentamento, soprattutto in questo momento di transizione. Sul portale troverete anche i podcast, le rassegne stampa, gli articoli e quant'altro, comprese anche le iniziative a cui partecipare per il vostro piacere e per il nostro sostegno. Quindi è veramente tutto, buonanotte a tutti e a tutte, bella, ciao. Ennesima tragedia sulle coste italiane. I corpi di 43 migranti sono stati recuperati dal mare sulla spiaggia in località Steccato di Cutro, nel Crotonese. Tra di loro numerosi bambini, anche un neonato e molte donne. I circa 80 superstiti hanno raccontato i soccorritori che sul peschereccio su cui viaggiavano erano almeno 200-250, altri dicono 180. Solamente un minuto, ci vola ancora meno da fuori.